ma buono, buono proprio. C'è sapore che è Ma tu, per una curiosità, hai fatto qualcosa all'antenna o stai scendo con qualche fatto in più? L'abbiamo riaddrizzata, perché? Ah, è perché il segnale è aumentato. Il segnale è aumentato, buonissimo. Andricendo? È in disogo io. Ah, purtroppo no, infatti mi ha reso più contento di tu. Addirittura l'antenna va bene, va meglio, va meglio. Va molto meglio. Quanto è il segnale? 19. Ah, va bene, capita, aiuta voi, Lucano. È perfetto. No, è stato messo a posto tutto. Andate adesso, dobbiamo aspettare solamente a Carlo. Quello di quel signore di Ottava, Giuseppe che lo si chiama. E niente. Luca, tu dove stiamo andando, se posso chiederlo? Fine via l'Italia, via Budapest, da vecchio, dove c'era passi in più o meno, da quella zona lì. Ah, ho capito, Ma la voce sembra che è giovane. 15 anni. Ecco, classe 69, un numero, un anno bellissimo e un numero bello lo stesso. 56 fatti. E vabbè, allora siamo lì, dai. Siamo lì, io ne ho 52. E noi siamo più vecchietti invece. Noi siamo alla classe di ferro. È vero. Carlo, oggi è una bellissima giornata, ti potevi mettere a sollevare questo cavolo antenna. È vero. E a Luca me. È vero. Ciao Luca del Monte, mica c'è anche Eugenio me. Ciao Luca. Buonasera a tutti, e beh, l'amico di Porto Torres. E beh, l'amico di Sassari. Tutto a posto? Veglia, ero andato a mare stasera, ho plantato lì, veglia, tutto a posto, una passeggiata, poi la temperatura stava iniziando a scendere. Buonasera, ciao. E beh, ciao Carlo, Gianni, Antonio, non so poi chi ci sia, avanti già. Veglia, ciao Luca, dai. E sì, oggi era una bella giornata, peccato che io avevo gente a casa a pranzo e non sono potuto uscire, dai, ma sono stato bene lo stesso, dai. Non ti sa greca nella domenica, la domenica è buonissima, dopo voi andremo. Così è, non posso mandarli via perché mio figlio e mio nipote ce li ho sempre ogni domenica. Oh, vabbè, mio figlio sta lavorando in casinata. I genitori non si devono dimenticare. Beh, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe altro, guappa. No, i miei figli già vengono sempre qua. Marco viene ogni domenica, a meno che non stia bene, cosa, viene ogni domenica a pranzo. Manuela, vabbè, è a Bologna che lavora, quindi adesso è proprio lontano, molto lontano. Tu con chi fai l'amore? Ma io giro la biglia di un gatto. Tutti zitti, non parlate. Carlo, riprendi. E io ascoltandovi e leggendomi notizie, niente, io mi già ho visto che era una bella giornata la mattina presto, ho visto il sorgere del sole, quando sono uscito era ancora buio, erano le 4:30, alle 5:10 ero al lavoro e sono uscito a mezzogiorno e mezzo, dovevo uscire all'1, mi ho preso mezz'ora di permesso, all'1 ero a casa. Poi ho pranzato e mi sono riposato un'oretta e ho visto che era bella la giornata, però poi ho detto esco, invece poi mi sono impuntrunito e mi sono messo un po' a guardare la TV, poi ho girato, poi mi sono mangiato 2 frittelle, capito? E adesso sono qua a fare 4 chiacchiere col computer. Vai Antonio! Capo, mi ero al telefono, ero. Seguito il discorso, no, ho seguito perché mi hanno chiamato al telefono. C'è che dite di Sabita, speriamo che arrivi, ma è prima alle 8. Ah, pensavo l'avete già mangiato. Negativo, la so che si tende, dice che è impaziente. Ah, come lo so. Piccolino Gabriele. E non solo il piccolino. Claudio! Dimmi, Angelo. Ma se posso chiamare? Tu capitano. Ti posso chiamare? Certo che sì, ci mancherebbe altro. Non bisogna di mio, chiama quando vuoi, sono qua. Luca Floppi, comunque l'antenna evidentemente l'hai aggiustata bene, perché qua mi arrivi 9.30 pieno. E sono con l'Alan 78 liscio, niente di più, niente vitamine. E non è bisogno, già sei in alto là, figurati, sul tetto, a voglia. Sì, praticamente come era prima, diciamo, dai, gli hai fatto un restyling perfetto, capito? Dopo la scopolata che ha preso del vento di Maestrale, e così è, purtroppo è così. Riprendi tu Luca Del Monte. No, riprendo io, tanto Luca lo riprende. Niente, magari adesso è anche più rinforzata di prima, perché magari l'hanno smussata prima di saldarla, l'hanno riempita bene di saldatura, quindi adesso magari è più forte di prima. E infatti sì, se la ripari bene non credo che gli dia più problemi anche in caso di vento, magari l'avrà anche rinforzata là dove si è rotta. Beh sì, gli abbiamo fatto, a parte l'anima risaldata e tutto meglio di prima, con una corona esterna leggera, ma poi gli ho fatto anche un rinforzo esterno in gomma semirigida, e poi l'ho verniciata di grigio, non si vede niente, e gli dà molta più solidità. E vi siete sovramodulati con Gianni. Con Gianni, però ho capito Luca, io ho sentito tutto quello che hai detto tu e Gianni lo sentivo sotto. Luca, rifai queste ore. Dicevo che me l'hanno saldata nell'officina dell'azienda dove lavoro e hanno rinforzato l'anima interna, poi gli hanno fatto la corona esterna e poi io gli ho messo un manicotto di gomma semirigida e l'ho verniciata pure, non si vede niente, ma quella gli dà più solidità. Magari dura di più adesso che già quando l'hanno fatta la fabbrica. E se mi pagano glielo spiego quello che ho fatto. L'ha riparata l'antenna, dice che lo vedo tra la rotta. Eia, da una ne avevo due, Antù, ne avevo una di 2 metri che è rimasta sul palo e gli altri 4,20 metri erano in terra, erano sul terrazzone, perché c'ho il lastrico solare, no? Sì, fatta in due, però l'ho portata in azienda, che abbiamo la saldatrice a TIG per l'alluminio, l'ho lasciata lì e il capo officina mi ha fatto tutto il lavoro. Bravo. Guarda che gli artigiani quando fanno i lavori, capita, non si stacca più, ci sono artigiani che sono bravissimi, che lavorano molto molto molto bene, quando fanno le cose loro hanno le mani d'oro, non si staccano più. Tu con chi fai l'amore? Eugenio Canterino, stasera. Mi sono fatto un paio di ceclini, ragazzi, cosa gli dai? Ai. Come mi piace questa cosa, mamma mia. Ma sentite questi sottofondo? Sì, ho sentito qualcuno sottofondo. Anche io, sicuramente sono in macchina. No, che devono essere di fuori, mi pare che siano i mezzamericani. Oh, questi americani l'altra volta erano sull'11, 9.30 arrivavano, cazzo. Chissà che ti fatti dratta. Li sento io sottofondo, magari. Eccomi qua, sono rientrato. Sì. Ah, non avete dubbi. Va bene, ma già avanti il micchino, la faccia l'ho abbassato leggermente, non mi sono accorto che era manettone, l'ho messo sotto la C, sì, appena più basso, vai. Va bene, sono qua. Vai a tutto motore! Allora usate il processore, io lascio andare con il processore, cambio. Ragazzi, vado a continuare a svuotarmi la bottiglia di Jack Daniel. Dai, già ci sentiamo domani, ciao! Raccoci con Baghi, quindi... Sappiate che è un genio, è forse l'unica persona femmina che conosco. Mi disegnava, va bene, va. Ciao, oggi saluto a casa. Poi ci aggiorniamo con la tabletta, va perché tocca. Ciao anche a Luca Valmonte e a Luca Floppi. Buonasera a tutti. Sì, dai, buonasera a tutti. Già ci sentiamo domani, o magari anche dopo che finisco di farmi la luce. Dai, ciao. Ciao, ciao. Luciano adesso com'è? Normale oggi, come sempre? Sì, anche la radio è cambiata. Poco fa stavo spingendo troppo. Anche la radio è cambiata, va bene. Adesso il segnale è aumentato un po'. È il segnale tuo, dai, quello di sempre. E anche la radio è più bella. Ragazzi, dai, io vi saluto tutti. Che l'allarme sta suonando. Ci sentiamo, grazie per il PSO, una buona serata e una buona continuazione, dai. C'è qua Tyson che è venuto a avvisarmi che vuole scendere. Ciao a tutti. Ciao Gianni, ciao Eugenio, rilancio per Luca. Ci sentiamo dopo, vai, ciao. Salutoni a tutti e buona passeggiata con Tyson. Ciao, ci sentiamo alle prossime, ciao già. Ciao Gianni, ciao. Allora, siamo già a 30, ci sentiamo. Ok. Luca, Floppi. No, abbiamo mezzo appuntamento cioè avevo detto che se veniva bene ci vedevamo direttamente lunedì sera, per cui è tutto fermo. Però vedo gioca by dandy, mamma mia, curi vivo, quanto è bello. Quindi il bambino non ti è arrivato ancora, Luca? Il pargolo è qua, però è ancora da svezzare, ma ancora sta prendendo i cosi, gli omogenizzati. Domani inizio la scuola. Ah, bene, dai. Così poi ci sentiremo ancora meglio, capito? Ci sentiremo ancora meglio. E va bene, dai, sono contento se hai lì il bimbetto, trattalo bene, capito? E poi quando fai lo svezzamento, capito? Bianco, per me che è arrivata la pizza. Ehi, Anto, buona mangiata di pizza allora. Ciao, sono Luca, no? C'è una biscia d'acqua, quella che è tua, quella è una M, non pensare che due grandi risultati, io ce l'ho avuta fino a 2 anni fa, non da grandi risultati, un'ottima cosa, però non da grandi risultati, quei grandi risultati sono sempre in campo, quella esce ma non è... Non come invece sta uscendo questa, per dire, capito, è un altro tipo di cosa. Vabbè, comunque l'importante è che ci sia un inizio e poi le cose piano piano già si mettono a posto. Non c'è problema, gappa. Ecco. Sì, va bene, tanto importante progredire, dai, diciamo così. Buonasera signor Claudio, un animo sempre dalla Sura, della collina. Mi servirebbe un controllo lì, vabbè che non c'è bisogno manco di controllare, tanto per sapere come sto uscendo, dai. A te quella buonasera, carissimo Claudio, avanti cambia. Buonasera Francesco Ragno, ben ascoltato, vabbè segnale, siamo vicini, quindi se ho massimo di quello che ti posso dare, però ho notato un leggero rientro di radio, nonostante sia abbastanza presente, però ho notato un innesco, Francesco. Innesco? Boh, forse troppo vicino al microfono, vedi un po' se c'è adesso, 1, 2, 3, prova, vai a vedere. Siete usando la radio che dico io, devi trattare leggermente il mic gain, oppure se c'è l'aspirale, il cavo aspiralato attaccato alla radio devi allontanare, perché sennò ti innesca. Qua non capisco un accidente questo cazzo di apparecchio. Va bene, provo a controllare, a vedere, Signore, sì, io prendo un attento, invece siamo in linea d'aria un chilometro, poi ci vediamo, ti vedi a me o vado a te. Però la radio va benissimo, attenzione, è abbastanza chiara, bella corposa, però ogni tanto sento un innesco che il solito innesco che fa quel cazzo di microfono. Capito, quindi devi cercare di allontanarlo, mi metto in una posizione che non faccia rientro di UDF. Tutto qua. Vediamo se ti ha ascoltato Carlo. È negativo, lo sento sotto il QRM, ma non lo capisco. Vedo la lancetta che va e viene, ma non niente. Francesco Uranio, già ci ho parlato tante volte, da prima a Usido, insomma, lo sentivo bene prima, adesso magari può dipendere anche dalla mia antenna. Nelle prossime settimane magari riuscirò a sentirlo. Comunque ciao Francesco, se tu mi stai sentendo. Sì, la mia antenna a vista vede Santa Vittoria, la montagna di Usilo, la montagna con i ripetitori, è proprio a vista, vedo le case, per cui sì, da me arriva pulito, tranquillo. Ho capito, sentito Francesco, quindi cerca di eliminare questo fischietto che c'è ogni tanto, però per il resto è tutto a posto qua, ok? Ok, yeah. No, non lo so, mi pare strano, non sto usando l'MC60, per colpo forte, per cui non lo so, ma prima mi pare che non lo facesse, boh, non lo so, era un sacco di tempo che non accendevo più niente, stavo accendendo solo in cucina, ma di rado. Ok, va bene, perfetto, benissimo, riprendi e fai girare. Ascolta Francesco, ma stai usando 14 come questo, io sto usando 140 e l'MC60, è uguale? Eh sì, ugualissimo. Perfetto, Mickey Gay, lo sai del Mickey, ma dove c'hai? Al massimo dove c'è scritto Max? Max, qua non vedo un accidente. Non lo so. Sto controllando. Max. Come c'è? Alla tua destra, dove c'è il volume? Ci sono 1, 2, 3, 4 driver, si chiamano. In alto c'è il power, sotto c'è il mic, RF gain, NB11. Dove c'è scritto mic? Lo driver dove c'è scritto mic? A quanto ce l'hai? Dov'è? Dov'è posizionato? Dove c'è scritto max? Dov'è? È tutto a destra, dove c'è max. Ecco, leggermente col dettino piccolino. Spostalo, non lo mettere al massimo. Mettilo appena indietro, ma un pelino. Vediamo un po' adesso, 1, 2, 3, prova, vai a vedere. Schiaccia la portante. Attaglio il micro, faccette, mica con l'ara. Va bene così, non lo mettere al massimo perché ti innesca. La radio è perfetta, bella, pulita, però non stai più innescando. Cambio. Ah, ok, ti ringrazio, ma poi veramente ho toccato involontariamente qualche altra volta, non lo so. Vabbè, meglio così, dai, non lo sapevo, adesso lo so, infatti il microfono è troppo alto, succede quello anche. Va bene, perfetto, saluto anche agli altri amici che qua purtroppo uno arriva molto molto basso e arriva un po' di segnale, però di radio è zero quasi, non si sente quasi niente. Non lo so. A te cambio, dai. Non ti preoccupare, faccio che lui c'è un'antenna nel bocciolo, ok, quindi non è un problema tuo, ma è un problema suo, se il giorno metterà l'antenna come la prima e poi tutto a posto, quindi non lo toccare, ricordati che non deve andare al massimo, anche io non ce l'ho al massimo, cioè leggermente più verso l'interno, insomma dove c'è quel trattino bianco, per capirci, perché fino a quando c'è il microfono normale, giornata è molto amplificato, è molto anche sensibile, e quindi se il Michigan è dopo altro ti fa rientro. Ok? Un piacere averti sentito, comunque siamo qua. Davanti Antonio sta mangiando, Luca Floppi prendi tu e fai girare. Io riprendo per dirvi che faccio un attimino di bianco ed entro a controllare mia mamma per vedere se sta mangiando. E niente, se fra un quarto d'ora vi ritrovo, bene, se poi sparite come tutti a quest'ora per andare a cenare, ritenetevi tutti affettuosamente salutati. A dopo se ci siete. Ma che, c'ho la vecchia a fianco io, nell'appartamento a fianco. Allora, vai, ok, rispondo al telefono, ci aggiorniamo dopo se coincido, vai Carlo. Ciao Luca, anche io tra un po' mollo perché mi devo preparare la cena e non posso fare tardi perché domani mi alzo molto presto, quindi sarò altri 10 minuti e poi chiudo. Sì, perché io devo cenare, un giorno di cena per tutti, quindi inizio a salutare anche io, se ci siete tra poco, quindi ciao Carlo, vai per farti la cena, ciao Luca Floppi, ciao Francesco Ranio, da oggi vado alla collinetta, Antonio che sta mangiando la pizza, Gianni che ha trattato il cane, Eugenio che si è mangiando la luce, un buon saluto circolare a tutti, vai, ci aggiorniamo dopo, se ci siete sono domani, ok? Un abbraccio grande a tutti, cambio. Va benissimo, buona serata a tutti, buona cena, dai, ce la risentiamo alle prossime, ciao, buona serata. Ciao, anche alle prossime, adesso non riuscirò a toccare niente. Ok, ho capito, va bene, buona serata, allora Claudio e buona cena quando la dovrei fare, ok, alla prossima. Faccio un altro po' di corex, dopo chiudo anch'io. Ciao, buona serata. Ciao Francia, fate sentire che abbiamo rimesso un po' in moto la cosa, quindi la sera siamo sempre qua. Ciao, un abbraccio, ci ascoltiamo alle prossime, cappa. Ciao. Chi c'è rimasto? Buonasera. Chi c'è rimasto? Non c'è rimasto nessuno. Ui, come mai? C'è rimasto nessuno, cambio. Attenzione, cane 12, attenzione, cane 10, non c'è rimasto nessuno, cambio. Hola? Chi è avanti? Tanto è bene, non c'è nessuno, no, c'è già adesso, c'è a vedere se c'è qualcuno. Poco fa era, ce l'avamo 6 o 7. Tutti andati via, solo tu sei rimasto, tanto. No, vabbè, io poco fa mi sono assentato, ho mandato la pizza, ricordo col bambino, adesso sono rientrato. Ti ascolto molto bene, come al solito. Bella radio, che cos'è questa? Uguale a tutto, niente di speciale. Volume V+4. Ah, sta andando bene. L'altro giorno in macchina ti ho sentito di sfuggita, non ti ascoltava nessuno, io ti sentivo bene comunque. Ma dove? No, non so, sempre su questo canale, ma non so dove eri tu. Un attimino, ho girato, ho sentito che stavi parlando, qualcuno ti ha risposto, ma la maggior parte non ti sentivano. Chiamata da Alghero. No, ieri, forse 2 o 3 giorni fa. Ah, sì. Scappa. Sarebbe da casa già, la sagosa, la casa già. Quel vento mi aveva appena coricato l'antenna, ma adesso l'ho rimessa a posto, ci funziona bene. Cioè funzionava anche prima, non era nulla di speciale. Ma adesso è dritta e va bene. Cappa. No, io ti ascolto sempre bene. Sicuramente ad Alghero ti avrei ascoltato comunque, io ce l'ho di fronte, Alghero arriva sparato qua. Anche quel portatilino in banda radioamatoriali, l'unico che sentiva, forse Fabrizio qualche volta, se no gli altri non sentivano nessuno. Non so, Alghero, ma lontano, se non fai antenna, non parli in Alghero. Ma per segnare cos'è? Sempre lo stesso? Quasi 9+30 arrivi. Perfetto. No, bene. Ma sei aiutato? Macchina? Non ho capito, no. Lui è il 48. Senza niente? Eia. E sta arrivando fortissimo. Pensavo ci avessi qualche aiutino. Certo. Comunque già esco, già ancora va bene. Ma è una da 48, non è normale, c'ha qualche modifica, cosa gli hai fatto? Normale. Con l'MM più 4, sì. Ehi, come ti manda la foto qui? No, no, già ci credo, ma sta facendo benissimo, una bella, bella chiara la modulazione, pulita. Certo. Io non ho grande radio, io sono... Cioè, ho un'antenna che funziona bene. Io non ho grande radio qua, la verità ti dico, però già esco da... A che piano sei tu con l'antenna? Questo palazzo. Dico, non l'hai messa in cima al palazzo? Sì, è sopra secondo piano, sì, in alto. Già... Ci sono ormai 3 metri di palo, mi pare. Ah, il palazzo c'ha solo 2 piani, no, pensavo fosse un palazzo alto, molto più alto. 2 piani è la soffitta, ma è abbastanza alto da qua, mi caspita. Non è bacio, il mio palazzo. Però già va bene, dai. E quanto c'è di cavo? Tu a che piano sei? Al primo? Primo piano, cos'è, non mi ricordo se ne è una ventina di metri. Per cui già c'è anche cavo buono, è usato. H155. Allora per quello pure rendi bene. L'importante è avere una buona antenna, un cavo che non ci abbia perita, vabbè 20 metri non so niente. E connettori di lusso, tutto bello sigillato, e vedi che l'impianto ti dura una vita. Sì, con l'H155. Non c'è Bing Gabriele, non c'è, è buono, cioè l'H155 è come avere un capo grosso, non è a perdita molto, e poi la posizione non è male, quella che ho io, è buonissima. Ma una domanda, ma tu sempre lì abitavi, quando c'era tuo babbo abitavi da un'altra parte? Io abitavo in via dei Corsi, quando un paio di anni ci ho abitato. No, no, parlo, la casa di tuo babbo è quella dove sei adesso tu o è un altro appartamento? Aspetta. Poi se quando eri con la tua moglie buonanima abitavi al centro storico, o sbaglio? Per un periodo ho abitato, poi sono rivenuto qua. Ma anche lì uscivi abbastanza bene, c'è già nel Rubroffetta, esce dal centro storico una bomba, io con 3 watt, 4 watt di apparato, ma è uno di quelli più furti. Va bene. Sì, ma considerando che lui rispetto a me è in un fosso, ma arriva una sparato, come Luca, vabbè Luca diciamo è abbastanza in alto, Luca è uno di quelli che arriva più furti. Sì, no, perché già va. Pure lui dalla bassa valle andiamo bene, caspita. Ma te l'ho detto, tanto come te non è mai uscito nessuno così forte, un segnale così forte da dove abiti tu, non so esattamente dove sei, però la zona è quella lì, Liva Delta, però stai arrivando più forte di tutti, nessuno di quelli di quella zona era arrivato mai così forte. Sì. Non è voi che sia, di fronte al certo abito io. In piazza botte, non è problema. Zappa. E quell'altro Luca di lì che c'era nella latte dolce, quello lì non l'ho più sentito da tanto tempo, ma sta uscendo. Chi dei due? La macchina. Sì, ripeto adesso. La macchina. Sì. Cosa vuoi, Gabriele? La macchina. Quello che era vicino al campo di calcio dell'oratorio, quello lì sto dicendo. Sì. No, già accende, mi sta d'ascolto. Ma ho sistemato lui l'antenna. Te l'ha piazzata lui? Sì, ma ho sistemato lui anche. Ma lui non usciva così forte come esci tu me. Sì, quando mi aveva creazioni, sì. Io non l'ho mai sentito a questi livelli, Anto, te lo posso garantire. Poi magari non so che cosa stesse usando. Superava anche le altre, Gio Maria, tutti quelli della zona tua, nessuno usciva così, neanche tuo padre quando c'aveva il coso, faceva le 9 tuo padre. Ah, ma va via, un roccio di coboro, va via, fa carità, antenna era. Ah, non aveva la stessa antenna tua? Oh no, sul tetto c'è. La morta! Guarda! La morta! È morto! La morta! La morta! La morta! E chi è che sta morto? Mamma mia! No, mamma ma l'aveva il balcone avvisando che sopra, se non gli rompevano le scatole. E rimane il Vittorio, cioè, Ananza rimane. Vittorio sta mandando l'antenna, mi scende acqua in camera da letto, gli ho detto, guarda che lì non ci passiamo noi, lì. E dopo l'ha detto, secondo ancora me la futti nuda. Ma poi c'è gente ignorante, il brutto è quello lì, se ti vedono, e magari la televisione c'ha un disturbo, ma quello è quello lì con la radio, col baracchino, quello è quello, e tu magari non vi sei in casa. Te lo dico perché conosco un sacco di amici, gli hanno rotto le scatole, loro non erano neanche presenti, non si vede la televisione, qua, là, eccetera. C'è gente ignorante, a Natale non l'hanno fatto morire con tutte queste cose. Ma io non sono né natalino e non sono babbo. Io te lo dico in quattro parole, a me ne ci dà duro prima che scatti male. No, non sto lì molto a parlare, no. E come ne chiedi dritto con me, no? Non me ne affrutti niente a me. E quando te lo dico una volta lo devi capire, perché se no ti dico che non me ne frega niente. Alla seconda non me ne affrutti nulla a Roma a pezzi. Faccio quello che voglio. È quello che non ho capito qua. Quando non ho capito questo. Io devo dire io, insomma, non me ne affrutti nulla di nessuno me. Ma dimmi una cosa, ma tu nel tetto puoi entrarci quando vuoi o devi entrare in proprietà privata? No, posso entrarci quando voglio. Quindi se devi fare manutenzione all'antenna, cosa, nessuno ti deve dire niente. E cosa mi devi dire? Vai, le fine in nera, con me, non facciano lo sbaglio, vanno brumando un po' di mosche, gli ho detto che invece ci metta la cuccia. Sì, ma magari qualcuno ti può dire, li stai mettendo davanti alla finestra di casa sua, il cavo, non li disturbi il cavo vicino alla finestra? No, non passa, passa da casa mia. Quindi non c'è nessuno che ti può dire niente? No, perché passa in facciata, passa nel praticamente il mio cavo scende, dove c'è, come si dice, il muro, non passa neanche dalle finestre degli altri, non ci passa. Proprio qua ho evitato di fare, ho evitato. Fatto bene così nessuno ti può dire niente. Chi c'è rimasto di lì a latte doccia? Adesso tu, Luca, Gio Maria, chi c'è di altri? Basta. Non molti. Ah, con l'ottore mi sembra sia andata a doccia, o sbaglio? Lui è Santa Maria di Pisa. Vabbè, io Santa Maria, cioè Santa Maria con la zona di interno. E poi chi c'è a Santa Maria di Pisa? Corso. Emanuele. Ah, giusto, c'era Emanuele, giusto. Ma sta entrando Emanuele, sono da un mese. L'ho visto tempo fa di persona, però si sta entrando qua in 27. Chi no, ma è entrato ancora, butta la porta. Scappa, è coso, un dubbio. Mario Massa, l'hai conosciuto tu? A voi lo conosco. Ma si trova ancora, perché sono anni e anni che non l'ho più visto e sentito. Certo che si trova, ma l'hanno fucilato l'antenna. Non me lo ricordo, me l'aveva detto, ma lui abitava giù vicino alla rotatoria per andare alla Bretellina, in quel palazzo che tu lo trovi di fronte, vicino alla chiesa. Sempre lì abita. Sempre lì. E lui c'aveva anche delle belle radio, mi ricordo tanti anni fa, almeno più di 10 anni che non lo sento in radio. Quando usciva negli altri canali non ci potevi stare con lui. Te lo dico già, usciva forte, troppo forte. Che è? Come lo fai a forte? Beh, qua. Perché non avevo soldi da investire. Ora ma la confessione deve investire, non lo so. Bisogna investire, come investire? Lascia perdere. Possiamo fare un tiro battito, fisso, tiro le 9:21 battito, non ti ho fatto il baracchino, non mi ha costato per loro perché ci avevo già il 430. Si sta parlando nel 1986-87. Quindi non c'era tipo poi gatti, usavo la scorraglia tutti i santi giorni sotto casa, tutti i santi giorni, fino a quando mi sono venuto a ricevere, a prendere la patente del motore, almeno per poter detenere la radio, non tanto usarlo ma detenerla. La salvo altro, e con gli anni ho gli anni di fuoco, ma la voglio di anni di fuoco, non voglio mai nessuno. Ma la pipina c'è a Sambo. Se c'è un buon rapporto con una persona, sai, nel canale lì, parli, cioè, parli con quella persona, va, non è che non c'è neanche bisogno di esserci il fuoco. Con quella persona parlare, perché ci sono 23 canali tutti occupati, con quella persona parlare. Se fai, giugnori, tutti i canali. C'era il 5, c'era il 10, c'era il 12, c'era il 14, che parlava con la Vescia, con gli amici suoi, c'era il 23, c'era il 35, c'era il canale 40, era tutto buono i denti, ma a tutte le ore, non era come adesso, noi siamo quattro gatti, mettiamo tutti in un stesso canale. C'era gente che faceva la questione per i fatti suoi, se pigliava in volte, ma colpi voci, non colpi la nuba, ma colpi voci. Colpi, battimento, roba, tu immagini solo che io, dottor Bonazzi, con chi ero 9:21 attaccato, Mario Babbo Natale, che mi lo recita ancora, anche se sta male, ok, e Costantino, quello eravamo tutti due baroni, erano uno dietro l'altro, col camion, rientrando a Cagliari, mi ha dovuto telefonare, fermarsi, ad Abbasanta a telefonarmi, perché ora non c'è manco telefonini, e lì sfruttarmi al canale 5 che non sentiva Costantino che ce l'aveva dietro, ma già di due. Se ti sentivi con un chilo ho fatto giustamente. Giustamente se ti tiro, un chilo ho fatto, cioè, è una cosa devastante. Ma bufuelli sì. Questa è il chilo, ho detto la posizione. Questa è la posizione, capito? Quindi è così, e poi ha tutta la linea Kevod, TS430, tutta la linea Kevod, compreso il tiro, non vuol dire della Kevod. Allora ci avevo 4 kilowatt a carbonati, perché 3 kilowatt non lo manteneva. Infatti alla fine volevo raggiungere il mondo perché stavo lavorando con l'amplificatore. Allora ti roba. Hai detto bene, Clark, mi hai contato la posizione, perché tu, cioè, c'è dentro un buco e c'è 10 kW, dove eri tu era, parecchio era dove il controllo, anche con 5 W arrivavi da tutte le parti, poi purtroppo hai perso lo scettro, è passato un altro torre di controllo senza far nome, mi pare, no Clark? Ma non ti stai facendo valere, assolutamente, io da lì so solo come passi. Io parlavo in questione così, mi salutavano, facevo un attimo i colleghi stupidi che c'è gente che sta chiamando. Allora lì parlavo a Villa Civo, entrava in diretta la sera, parlavo diretta a Villa Civo, la carbonazzi. Ma stai attento a questa zona, però, non la sottovalutare molto. Ok, perché se ti ricordo non voglio c'ho l'antenna, arrivano un rapporto Torres, e a 2 metri, io oggi mi sono messo le fascette nuove perché non erano attaccate, mi sono messo la scaletta piccolina, quella a 3 gradini, e mi ho messo le fascette sino ad arrivare al piore, capito, l'antenna è alta 2 metri, 2 metri e mezzo, se io quest'estate decido di portare su quell'antenna, lì dovremmo inserisce un tubo da 6-7 metri, sono cattivi. Lo so, tu sei molto più in alto di me, se ti metti un'antenna un po' più in alto sicuramente migliori parecchio la cosa, la situation, va bene, dai, già mangiato hai classi? Sì, finito adesso, infatti stavo entrando a spegnere la radio perché c'è un film che sto seguendo, inizia tra un po', hai visto, lo bevo è contro la Juventus, e Romila ha boccato da un bar, ma tutto due in casa, io non lo capisco ho visto il gol, io l'ho visto l'ultimo pezzo della partita, perché era 0-0, c'è mia figlia a Milano, lei vive di lì, vicino a Milano, a Rò, e stava guardando la partita, mi ha chiamato come è finito il primo tempo, ha detto che sta facendo schifo il Milano, ha detto ma occasione, no, non ha avuto nessuna occasione, quindi l'occasione, quel giocatore mi pare tre denti nella Negavado, Guido, quel centrocampista inglese, ne hanno tolto tre denti, si è sbattuto al portiere, e poi stavo guardando e ho visto 1-0, allora ho acceso subito, perché me la guardo su internet, cosa è successo qua? Guardo alla fine, proprio in quel momento c'era la replica del gol, ho visto, ma secondo me c'era fallo prima dell'azione, non ho capito perché non l'hanno fischiato, sicuramente ci saranno, però quello che mi dispiace è che all'Inter gli sta andando tutto bene, alla fine il campionato l'ha già vinto, come in Napoli, 7 giornate in anticipo lo vince, però Allegri ha detto a noi ci interessa arrivare in Champions League, per il campionato se ne parla più avanti. Poi la Juve, ho visto la scutturata che ha preso ieri, ok, riprendi Antu. L'ho trovato la sbucciatina, ero bucato stasera, se no io riguardo sempre a vedere come va, perché c'ho, come si chiama, Sky, cioè Now, ho fatto l'abbonamento, quindi posso guardarmelo, per il momento va bene, posso guardarmelo sia dalla macchina sia dal telefonino. Ogni tanto una sbirciatina, perché c'è la Formula 1, capito? Poi già va bene, due cose anche noi con gli ultimi. Non ho capito cosa hai detto? C'è perso anche il Napoli. Del Napoli sono contento, così non tanto per Napoli, ma chi sa allenatore, un antipaticone, proprio non lo sopporto. Tutto l'ho perso, ho perso io, lo Juve, solo Inter ha vinto, ma l'Inter ha già vinto il campionato, è a più 12 la seconda, dopo la più alta la guerra, poi tutto il resto è noia, vabbè. Bene, tornando, vabbè, sì, che ho lavorato bene questa radio, sto andando a 140, se lo stavo usando da un po' di tempo, come va, bene. Le radio sono una bomba pure troppo forte, segnale se quasi 9,25 con i picchi a 9,30. Sì, vabbè, sto usando 20 watt, niente di che, non la faccio spingere molto questa, perché la radio vecchia già, Fabrizio mi ha detto appunto che non farla spingere perché aveva avuto un problemino e quindi l'ha messa a posto, ma tu non farla spingere, ma 20 watt sono più che sufficienti. Va bene, vai, e la radio c'è un bicchierino a metà, non è neanche a manetta, è motivata questa, non l'avevo fatta per me. Va bene ragazzi, io vi saluto, vado a vedermi la TV, spendo tutto, ciao Antonio, Roberto e chiunque sia in agguato. Se ti trattiene, va bene, mi fa un po' entro il genio. Ciao a tutti, buonanotte. Ehi Aclaro, anche io sto facendo altre cose da un'altra parte, sono entrato un attimino perché non c'era cosa che stavo facendo io, adesso ci sono, sto guardando il cluster, c'è roba che mi interessa, infatti saluto a te, saluto Antonio e chiunque fosse in accolto, poi magari se riaccende c'è qualcuno prova a chiamare. Ciao a tutti, vorrei da parte mia. Ciao Roberto, io poi sabato prossimo c'è anche attivazione, quindi va bene. Ciao a tutti. Vabbè, ci sei ancora? A me hai detto, guarda, sono tu. Io ho detto, ci sei ancora, vabbè. Ma sto salutando, ho salutato perché adesso io sto facendo dei diplomi dell'AWAD, adesso visto che sono apparsi quelli che mi interessano, per cui devo procedere. Magari dopo, se ci sei ancora, tieni acceso, magari prova a chiamare, se ti fa piacere vediamo un po', dai. Ciao, ti saluto. Vai tranquillo, ciao. Santo Antonio. Ehi, avanti. Ora, come va? Bene, esci a vedere una cosa. Vai. Ora. Che per ora? È aumentato. 9,10 adesso. Non vuol dire che gli ha fatto bene con la drizzata. Cosa tu? Cos'è che gli ha fatto bene? L'ho drizzata l'antenna, ti sento bene. Ti sto arrivando bene. 9,10 sei. Vabbè, cosa stai combinando? Sto parlando con Roberto adesso, se n'è andato, che Claudio. E niente, eravamo tutta la sera a dormire, era perché non ci siamo sentiti poi. Però, avevo dormito un bel po', infatti, era tutta la pazzuria, si dice, ho qua sta correndo. Vabbè, adesso tranquillo. E niente, io sono da stamattina sopra quella, quel macchinario. E là, dopo un po' siamo riusciti a metterlo, a sistemarlo. Meno male che cavolo. Se c'è andata quella persona sono convinto che l'avrebbe risolto subito anche tu, già Rusiamma l'ha detto. Però là se te l'ha risolto con l'altra persona già va bene. E capo, no, ma lo posso sempre fare, perché quello mi sta con lo sinistro e sta con l'altro, capito, non c'è problema. Ma è giusto adesso a farlo andare, poi in là vediamo. Caffa. Ma che male ti sento, sembri qua. Due, 19. Oh yeah. Veramente male ti sento. E Gabriele, la nonna sta facendo? Oh, la nonna l'ha fatta poco fa, va per il gazzino. Ma già di massa, va, facciamo un po' scaricare adesso. E poi già... passa bene, mi senti tu lì? Rocchiare, ah, benissimo, sembri qua, ma no, pure tu è a posto, è a posto perché quando le cose funzionano bene, no, mi sono accorto che è migliorato, cioè, vabbè, adesso la mia è a posto, quindi, c'ha tutte le sue prestazioni. Ho visto che è ancorato anche bene, quello sì che è un ancoraggio. Ho fatto il mio amico Luca, ha fatto un bellissimo lavoro, ha fatto. Ciao. Adesso non ci dovrebbe creare più problemi, non dovrebbe farlo, ma bisogna aggiungere un'altra tappa. Però vabbè, dai, già. Per il momento già va bene. Io l'avrei fatto una giuntina nel piede, giusto per bilanciare, capito? Perché, te l'ho detto, a volte che da sotto si esce, capito? E quindi si andiamo a piegare. E le forzatore sono che gli ha dato, quella corrente da trekking che ha fatto uno sbaglio enorme, c'avevo quella, ho detto vabbè metto quella. Se è fatta, attento un pezzo, forse mi fa qualche cosa che ti ha occulto da... Cioè tu fai così con la mano, track si rompe. Quella corda è come si immaginava, è plastificata. Uno schifo. Gli ha messo quella da marinaio, quelle corde forti, ecco. Ma che quella là, l'altra che c'era, che abbiamo comparato, non gli ha fatto nulla, capito? Se la corda è buona non ti fa di nulla, perché si piglia quella là, come ti piglia dove si è sfarinata. Questa com'è, classificata, cioè tiene là, è non inzuppa, la scaccia l'acqua. No, quella non gli fa niente, questa che c'è adesso. Adesso mi stai iniziando un film, ieri notte abbiamo dormito poco, abbiamo spazio della minoretta. E come Anna, e credo mandano a sabattolo, adesso animale, dai, casomai la cerchiamo domani mattina, dai, buonanotte. Ehi, domani c'è tutta la marina, mamma mia, non li posso più. Ancora, non avete finito? L'elettrica, ho svuotato tutto, ma cosa, dal puntatore, il muro. Adesso c'è da svuotare il palco. E abbiamo finito. Adesso è il bello, con il palco, con Giulia, della compagna. Dai, non credimo in che andiamo in casa, dai. No, è un palchetto del capolo, sarà molto perotto, già piccolo. Non è così impegnativo, solo che, mamma mia, va. La rottura del balla che ti devi dovrà fare la riera. Anche il viaggio da distanza, andando e tornando, alla fine è tutto anche più nel viaggio che è il lavoro che stai facendo. Vabbè, non ci metto qui, neanche 15 minuti a scendere, non è quello il problema. superando i limiti, mi no, ma fatti la palla, come ti dicevo, detto un voto. Cioè, io tenendo 110, perché lì si cammina così, la velocità massima è quella. Io non ci ho messo molto a guardare a Sassari, rispettando i limiti di velocità. Col tuo mezzo stai andando? O qualcosa nel mezzo della pista? Stamattina mi hanno messo la benzina, sono sceso con la mia. Ma la benzina te la rimborsano, ma se non c'è te la metti più di tasca, se no non ti vuole manco la giornata. No, me l'ha messa lui. Mi ha messo 30 euro stamattina. Non ho messo la benzina, la macchina a lungo andare c'è l'usura e tante altre cose, che magari adesso non ti vengono, però più là se li devi mettere in tasca. Cosa faccio? Non vado a lavorare. Purtroppo molte volte c'è anche con la scelta, vuoi andare a lavorare, così è. Già mi stanno anche rimborsando la benzina altre dita. Quindi vuoi andare a lavorare, va a lavorare. Cioè, non è manco quella che rimborsano, capisci? Altre volte ringraziare, perché c'è il lavoro lì, ecco, se vuoi scendere scendi. Smonta quello che c'è da smontare, anzi, non è che. Dai, purtroppo, il ballo è. Andare bene, dai. Non ci aggiorniamo a domani, dai. Non va bene male, cavolo, che bisogna fare attenti a chi va a stradale, la gorgia, capisci? Questo è con gli occhi aperti quando vai lì. No, è un casino, mamma, no? Non ti credi che si mangi la bagna, se mi ha battente. È tutta quella attrezzatura dopo la carità che tu, cioè il camion, roba così, roba grossa. Sì, abbiamo il furgone. Cosa fai tanto su che non copiato? Abbiamo il furgone grande. Ah, ehi, allora, cazzo, ci sta tutto, ma fatti più uno più bello, più viaggio fatto, però non è che questo viaggio non ce l'ha fatto. No, ci sta tutto. È piccolo il carro, un 8x8 mi. Ci sta tutto. Ah, 8x8. Dai, cosa è gemellato? No, forse è anche più piccolo di 8x8 il palco. No, è normale, è Mercedes. È a noleggio perché quello che abbiamo noi ma non pesa molto. Quando è così piccola, no. Chi su che avevo fatto a Valeria, chi su un 12x10. Grazie di auguro la vostra. Grazie di fuori il gambo. È tutto a mano, certo? Cioè, ogni auguro. Grazie a tu. Stasera, come si dice, ho fatto suonare dentro una cassa, che è una cassa di giudice. Tutta la famiglia che è dentro una cassa. Dite, ma per Michele è buon fungo. Oh, e gli ho fatti scendere in apnea per vedere se avevano le bombole. E ho visto che con l'acqua già non respirano. E lei va a dirmi. Cosa ti riesce a evitare? Adesso non lo lasciate andare, perché il morto non ci riescono a farlo se non lo facciamo nudi. Mi sparrava. Quindi se tagliavano il capo e mi mocicavano. L'importante è che la riesce a invitare, o per te i miei. Ce n'erano quattro più, ma quattro belli, gattini sembravano. E qui c'erano dentro, c'era una graffetta di piccolini. Adesso domani mattina quando apro la cassa la faccio suonare. A vedere cosa c'era, quanto era grande la famiglia. Ah, la borsa appena di benzina, aveva dopo poco, vai. Avevi amici correnti nella campagna, che ti sono un decine. Vabbè, se rimangono lì dentro li provi i vivi. Cioè, gli animali da assaggio. Al momento non avevo niente, era giusto per togliere dalle scatole perché in campagna sono stati chiusi. Adesso meno male che io per fare di mangime gli animali. Che è successo? Ascoltami. Se stava seguendo il giorno. E adesso non a mangiarsi la plastica, capito, del contenitore che c'è qui, dagli animali. E se non sei attento, te lo butta dentro, se non è qui. E poi come se non bastasse, sono i cinghiali. Ieri notte erano attorno alle 5 e cosa, e mi hanno scavato di nuovo nel tessuto, ma stanno sentendo sicuramente gli altri, sentono l'odore degli altri. E niente, adesso per un po' che casino mi sono mangiato, e c'ho anche della roba cantata qui nell'orto, e così che mi sono fatto la storia. E la finale era più là da lei, a lui che la prima. Ah, ragazzi, dico di... Due cuffiette andando a capo, li faccio questo, che ci guardi. Cioè, no, se no, li farò un giorno. Perché non è possibile, li farò un animale così. Tu, ma sono tanti, e sto dicendo che tanto generando più. È una cosa... Guarda, ieri notte mi sono andato 3 volte. Se non ne avrò portato 35, ma uno più bello dell'altro. Io ci voglio dire un po' pochini, adesso vediamo un po' di... magari alle fucilate magari già fatto un po' più bello. Vivo Guido Silenziatore, vivo, capito? Qualche uno che conosci, che non fa del casino, fa del paf! E boh, cribato in terra, capito? O se no devi punire i giovani, perché non si può fare casino qui. Sai cos'è? E con il cacchio si dà un sacco da fare il casino. E la spalla invece arriva, non dice niente, sta zitto, questo è silenziatore. E te lo scegli la susta che tu, o tu cosa puoi dare? E te non è che dice. Quando arriva la spalla, arriva la balla, buf, buf, si chiuderà e li scogliare, aiuto. La salsiccia me lo guardo, beh. Avevamo già che cosa, le cugliecce, e via. E poi si mangia carne di cinghiale al suddetto. E lì se conosci qualcuno si fa dei, si fa da poco, si fa, cioè, mi piglia a bomba, quindi. Che senso se conosco qualcuno? Ma mica chiamo la gente a prendere il maiale. E se c'è il macchio, oh, se li prendo sono i miei, che cazzo me ne frega. E adesso lo devo dire. È meglio che non ci vengano qua. Oh, io li lascio a perdere, non se ne vuole gente in campagna. Infatti noi in campagna siamo una vita, quindi se lo sappiamo cosa fare, se ne vuole di gente di nessuno. Ok, allora, dai, già lo sai, non mi ha fatto un carne fresca, il cinghiale, già lo sai tu pure come te qua, quindi non è un problema, ci vuole un po' di pazienza, ma voi, il cugliato, e via, hai fatto la soluzione. Quando hai 5 o 6, ne metti in mezzo uno bianco e c'è una bella salsiccia, lo sai, oh, buonarella. Sì. Tu sai che ti sta facendo sentire la stanchezza di oggi e di ieri notte. Oh, dai. Casomai se coincide domani mattina ci sentiamo sull'altro canale, dai. Dai, buonanotte, un bacio al bambino. Ciao, buonanotte, ciao.